soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Da tempo, ormai da una quindicina d'anni, l'etichetta Clean Feed è una delle etichette più attente, è quasi un vessillo della musica contemporanea, diciamo, di quello che accade nell'ambito del jazz, soprattutto nell'avanguardia, ma anche nel trovare il consolidamento di una tradizione. Quindi ormai nel suo catalogo sono transitati più o meno tutti i grandi personaggi americani, più legati alla ricerca e all'avanguardia, e poi naturalmente una schiera nutrita di musicisti europei. Recentemente sempre più presenti sono quelli norvegesi, e la realtà norvegese, che è probabilmente una delle più interessanti, più stimolanti sul panorama europeo e anche internazionale. Quindi oggi ascoltiamo tre esempi diversi tra di loro, che rappresentano quello che è un po' il panorama di questa ricerca, di questa avanguardia, pur mantenendo i piedi molto ben piantati nella tradizione. Sì. Il primo è una piccola formazione orchestrale, sono 16 elementi, guidati da Mario Barroso, una formazione portoghese e interessante. Già una decina d'anni che è stata formata questa piccola orchestra e ha prodotto alcuni lavori, pochi, ma quest'ultimo direi che è probabilmente il più maturo, ed è stato anche segnalato come uno degli esempi più interessanti della forma orchestrale, un po' che è un po' la forma che in Europa ha avuto una presenza e sta avendo una presenza molto significativa. E diciamo che stilisticamente si può scrivere nella serie delle orchestre, un po' come la Fire Orchestra, che prende le proprie radici sia dalla musica contemporanea che dal rock, e quindi è sempre più difficile poter definire gli ascendenti, è sempre un utilizzo che va a tutto tondo a cogliere qualunque tipo di stimolo della musica del Novecento in generale. Ascoltiamo il brano di apertura, perlomeno la prima lunga parte, sono quattro brani, quindi tutti piuttosto lunghi. Ascoltiamo quello di apertura. We'll be right back.

Ottima prova questa, l'ultimo lavoro di quest'orchestra chiamata Lume, il disco è intitolato Zabragas, è appunto uscito quest'anno per l'etichetta Clean Feed. E un altro musicista, di cui è uscito l'ultimo lavoro da poco, da un paio di mesi, è piuttosto nuovo, un pianista belga, Jonas Cambien, e con un trio un po' particolare, anche proprio per la ricerca timbrica. Infatti, oltre al pianoforte, al suo pianoforte, si aggiungono alla batteria Andreas Vidagen e al sassofone, alle anze, tutte la gamma delle anze, compresi i clarinetti, Andre Roligeten. Questo naturalmente sono dell'ambiente norvegese, sono musicisti già affermati in Norvegia. Il batterista ha suonato, anche suona normalmente anche in gruppi internazionali. Il sassofonista è più legato alla compagine nazionale, diciamo, però appunto di ottimo livello. Il risultato è notevole, infatti, soprattutto proprio per la capacità compositiva di Cambien, che come dire, riesce a dare un'interpretazione molto, molto sintetica nel suono del suo pianoforte, e proprio anche l'assenza del contrabbasso mette in evidenza appunto la sonorità del pianoforte ancora di più. E appunto sono modelli compositivi e complessi che si rifanno sicuramente a tutta un'esperienza, anche questa, anche in questo caso, che proviene dal minimalismo, da un certo ambiente, diciamo, della musica cosiddetta accademica. Ormai distinguere tra classica o jazz è veramente non ha sempre meno senso, e lo ha sempre meno anche per i musicisti soprattutto. Ascoltiamo diversi brani presi da questo bel disco, che si intitola Zoology of a Future, che è, quindi appunto, che è uscito appunto recentemente. Thank you. Thank you. Questo era il trio di Jonas Cambien, un bel disco uscito recentemente appunto per la Clean Feed, intitolato A Zoology of Future. Un musicista interessante da tenere d'occhio, questo pianista, soprattutto proprio per la sua originalità compositiva, che riesce ad attingere da materiali sonori anche più diversi. L'ultimo disco dal quale ascolteremo un brano è un classico ormai, si può considerare tale, Tony Malaby, uno dei sassofonisti più consolidati, più importanti dell'ultima generazione, è un musicista con un suono molto bello, una capacità tecnica notevole, veramente notevole, una sonorità bellissima. E appunto la sua ricerca musicale, la sua ricerca anche di uno stile proprio lo conduce spesso in territori diversi tra di loro. È molto frequente anche sentirlo come sideman in altre formazioni. Il suo fraseggio cambia a seconda anche del contesto nel quale si trova. Ha una vena sicuramente legata alla propria provenienza, diciamo di origine latina quantomeno, nasce nel sud degli Stati Uniti e risente sicuramente dell'influenza messicana, l'ambiente latino lo respira nella musica, ma anche però un forte legame con la narrativa, diciamo, di coltraniana, ecco, del sassofono. Proprio anche per le sue capacità, sia col soprano che con il tenore, di un fraseggio serratissimo con sfumature infinite, quindi chi riesce a suonare il sassofono in quel modo lì vuol dire che ha una tecnica che si può permettere anche di imitare o di ricercare quantomeno le strade di Coltrane. L'ultimo lavoro uscito è un lavoro interessante, un gruppo chiamato Paloma Recio, è un quartetto di musicisti di primissimo livello, sono tutti protagonisti questi, è il trio classico, per esempio un collaboratore ormai da tempo, perlomeno frequentemente, che fa parte frequentemente del trio, è Nasheed Waitz alla batteria, che è un batterista molto duttile anche nel ricercare la propria strada. Per esempio, ritengo che con Malaby Nasheed Waitz abbia dato prove notevolissime, probabilmente le cose migliori che ha fatto. Il contrabbasso, anche lui è un musicista leader di gruppi, si tratta di Elving Opswick, cognome un po' stretto, bravissimo sia come compositore che anche come contrabbassista. Ecco, poi alla chitarra, per me questo è l'ingresso più interessante e più importante anche nella sonorità del gruppo, e appunto l'ingresso di Ben Monder alla chitarra. Ben Monder è un musicista che si ritrova, ricerca una sua linea, mainstream, una sua linea nella tradizione, ma anche nel cercare dei confini ulteriori a quelli che si pone. È un musicista intelligente, sempre con una costruzione del proprio solo, del proprio ruolo all'interno dei gruppi, sempre caratterizzante, diciamo. Quindi è una voce, questa all'interno di questo quartetto, importante proprio per il risultato che ne deriva per la musica di Tony Malaby. Il disco è intitolato Incantation e ascolteremo un brano che direi che prende pari pari dalla tradizione del sassofono, si riascolta le sonorità che vengono proprio con le Manokins, a Sonny Rollins, questa forte impronta del suono del sax tenore, e che viene appunto declinata poi in un contesto che cambia poi durante il brano. Ascoltiamolo. Thank you. Thank you.